E ci siamo, Ristorato e Convento in diretta in compagnia con gli amici che vengono da? Bergamo. Da Bergamo, esatto. Bergamo alta, bassa, sempre la solita domanda che vi fanno tutti, giusto? Bergamo alta, due di noi. Alta avete chiamato lui perché è quello alto, giusto? Per forza. Che, e lui è, che no, tu sei Lorenzo? Lorenzo. Luca. Luca, ecco, Luca è quello alto, quindi parla per Bergamo alta. Esatto. Poi abbiamo quello, tu sei a metà, giusto? Sì, Giovanni. Giovanni è a Bergamo media. Media. Io basso, Bergamo basso. Bergamo basso, okay. Ecco, perfetto, ok, abbiamo simboleggiato tutto Bergamo. E siete gli amici di? Francesca. Francesca, parlate più vicino al microfono che si sente meglio la voce. Francesca, allora, facciamo un difetto di Francesca, ce l'ha? Perché prima non sono riusciti a trovarlo, eh. Uno solo? Ah, ne ha tanti allora. No, perché un po' egocentrico. La simpatia è un difetto. Attenzione, Luca ha detto egocentrica, eh. Prendiamoci le nostre responsabilità. Ma Luca è il criticone del gruppo. Ah, Luca è il criticone? Sì. Non è lui è il critico. Sono il realista. Il realista. Difficile da accontentare. Anche con le ragazze, sempre così. Non sa so ma perché lui vale, giusto? Giusto, Luca? Di Bergamo Alto. Ecco, quindi punta di Bergamo Alto, quindi punta in alto lui, giusto? Esatto. Quindi è single, immagino. Esatto. Ecco, chissà perché quelli che puntano in alto rimangono sempre. No, sono fidanzato. Ah, lo vedo entusiasta, tra l'altro. Relazione a lunghissima distanza. Lontanissima. Lei sullo spazio e lui è Bergamo Alto. Ah, veramente? Scusa, Marziano? Sei fidanzato con Marziano? Bielorussia, Italia. La relazione. L'ha presa su internet con i punti. Com'è che hai fatto? Perché devi sapere che. Con i punti dell'S lunga. Sappiamo, no, dimmi. Devi sapere che sia io che Luca, Giovanni un po' meno, però viaggiamo molto. Abbiamo studiato all'estero per un po' di tempo e quindi abbiamo conosciuto molte persone da tutto il mondo. E Luca, detto l'ho Palo. In Erasmus, detto Palo? Detto Palo, sì. Ma perché, quando è sdraiato o in piedi? No, è importante questo, eh? Sdraiato, sdraiato. Per entrambi. Per entrambi, quindi. In entrambi, no, perché. Visto che punta in alto, ecco. Anche dallo spazio lo vedono, tra l'altro, quando è sdraiato. Per quello che era tipo in Bielorussia. Perché. È un segnale, cioè lui si sdraia praticamente, Luca si sdraia e dalla Bielorussia lo vedono addirittura, quindi a Natale gli mettiamo anche le lucine, che così. Esatto. Ok. Però il Natale in Bielorussia è il 7 gennaio, ricordo. Ah, veramente? Sono ortodossi, sì. Ah, pensavo è la distanza, pensavo fosse lontano. I re magi arrivano dopo. Che non c'entra niente i re magi con Natale, però sono anch'io abbastanza. Ma si passano le cuffie questi ragazzi. Quindi ok, quindi abbiamo scoperto il Natale di Luca, ecco, lo vedremo pieno di lucine. Bielorussia il 7 gennaio, mi raccomando. Il 7 gennaio. Dobbiamo festeggiare qua per partire, festeggiarlo di là. Ma Luca, vuoi salutarla a sto punto, che magari ascolterà anche lei questa Vittoria, I'm waiting you in Italy and see you soon. Bye bye. Parlate inglese? No, in russo non lo sai? Niente? Non so il russo. Non sai russo, però. Anche in inglese. Anche in inglese non si è sbattuto molto, diciamo. Qualche frasettina un po' più. Hai detto I love you o non l'hai detto? I love you. Mi piace la spontaneità di questo ragazzo. Sono sincero. Sì, si vede che proprio parte dal cuore. Non so se sta ascoltando. Per me sta solo aspettando che torni in Italia, poi. Check and down. Ecco. Esatto. Poi passiamo a Giovanni. Giovanni, sì. Ok, tu con che nazione sei fidanzato? Italiana. Ah, italiana, giochi. Un cliché. Ma così lo vedo anche lui entusiasta, Sì, siamo. L'amore regna sovrano tra di voi. Te con chi? Come si chiama? Carlotta. È qua stasera Carlotta? No, non è qua, qui a Milano. Milano-Bergamo, dai, ci sta. Milano-Brescia, in realtà. No, ma in realtà lei di dov'è? Dillo. Di Novara. Ah, di Novara. Sì, la Lombardia la sto girando tutto. Quindi se ti sdrai da Novara più o meno riesci. Ecco, poi ricordiamo che lui è medio, quindi non è all'altezza di Luca. E anche tu ti metti le lucine ai programmi per il Natale? No, in realtà. No, il problema è che sia io che la studio medicina e quelli che studiano medicina non sono molto creativi, è un po' un problema, ma è meglio che non siano creativi, ma che siano abbastanza razionali, è importante. Troppo. Le ricette creative non piacciono. No, esatto. Quindi tu e lei non avete fantasia, dici? Sì, non troppo. Tu chiedi a Luca che ti dà lui esatto, delle dritte. Esatto. Ho molti idee fantasiose. Oh, anche a Lorenzo. Ma Lorenzo è troppo fantasioso. Ah, Lorenzo è troppo fantasioso. Adesso approfondiamo. Adesso vuoi approfondire? No, io. adesso lontano, non ci ho sentito abbastanza. Tu come l'hai conosciuta? Con che punti? Di che supermercato? No, no. In realtà ci hai provato tu? Sì, ovvio. Ovvio. Forza, deve fare tutto l'uomo. Sempre l'uomo, no? Sempre. Così, prendere coraggio, andare là e dire... Sì, se mai che la donna faccia un passo lei per prima. Niente, sarebbe troppo facile. Sarebbe troppo bello, né? Esatto. Quindi i tuoi bei no li hai presi? No, in realtà dai, è stata... A parte l'inizio è stato difficoltoso, però poi sono riuscito a rompere il ghiaccio e... E ce l'hai fatta conquistarla? Sì. Vuoi dirgli qualcosa? Puoi approfittare, eh? In dialetto novarese? A parte che a Novara non hanno dialetto. Ah, non hanno dialetto? Un accento perfetto, infatti mi sfotte sempre per il mio accento bergamasco. Allora dillo in bergamasco, bello, bello spinto, dai, che è così... Non saper parlare bergamasco, sta... Che fai, chiedi a Luca, non sa parlare... Ma Luca in realtà lui bergamasco... Cioè, ci sguazza. Tu dimmi cosa devi dire. No, in realtà. Tu dimmi cosa devi dire. No, però non mando un messaggio, ma racconto questo aneddoto interessante. Ah. Che domenica ha una festa a tema di una sua amica. Il tema è rosa, quindi purtroppo dovrò. Andrai vestito in rosa? Un gadget rosa dovrò indossare. Le mutande rosa. Ma purtroppo qualcosa di anche di più appariscente, quindi sto già sudando per. Ma tu vai sempre in giro di rosa tondo, qual è il problema? No, Lorenzo ci sta facendo una rivelazione incredibile, quindi in realtà Giovanni è sempre vestito di rosa. No, è una scusa. Ah, solo con me, quando vedi me ti metto di rosa. Ah, solo quando esci con Lorenzo. Colpa mia. Che botta di fortuna Lorenzo che hai, avere l'amico Giovanni vestito di rosa. Esatto, ma parliamo anche della tua botta di fortuna. Tu che nazione hai conquistato? Sembra Risico. I vostri accoppiamenti sembrano un gioco Risico. Che fai? Ti sei fermato? Beh, no, sto ripensando a... Ti stimano queste ragazze, tra l'altro. Ciao, ecco, dicono uno, sei il numero uno, dicono, Lorenzo. Ecco, purtroppo da casa non ci possono vedere, però hanno capito tutti che... Me lo dicono spesso, in questo modo. Che sei in questo modo, il numero uno, perfetto. Anzi, tra l'altro stanno andando, mi sa, quindi... parliamo... Cumino parte. Parliamo, esatto, Cumino parte. Lorenzo, dici un attimo, tu, allora, nazione? Ma... questa è una bella un domanda. Per giusto? No, ma ultimamente posso darti due nazionalità. Anzi, una franco-tunisina. Franco-tunisina? Vale doppio, esatto. Vale doppio. Ma non è neanche sul confine, perché franco-tunisina. Metà, scusi. Esatto, mamma tunisina e padre francese. Ah, ok. Nata a Parigi. L'hai incontrata in mezzo al mare? tra. Non durante, lo so. Durante il viaggio. Ok, come si chiama? Te lo ricordi? Un bellissimo nome. Elissa. Con due S? Elissa. Sì, con due S. E quando non la vedi più, lei si è? Glissa. Bravissimo, Iran. Vedi che Luca è sulla frequenza d'onda giusta. Sì, beh, si è già glissata. Si è già glissata. Ah, quindi sei single adesso? Assolutamente. Assolutamente sì? Assolutamente. Vuoi fare un appello all'intero globo terrestre? Fatevi sotto. Cioè, è una minaccia, tipo fatevi sotto. Oh, ragazze, mi raccomando, una alla volta, fatevi sotto, perché Lorenzo, ecco, è in area di sfida. Però è importante all'Oktoberfest, a quanto pare. Pochi giorni fa ero a Monaco. Sì. E ho partecipato all'Oktoberfest, che è una festa. Ti hanno invitato, hanno chiesto di Lorenzo all'Oktoberfest. Special guest Lorenzo, ecco. No, in realtà ho vissuto là per 6 mesi e quindi adesso era l'ultimo periodo. Quindi assolutamente devo andare all'Oktoberfest. Giustamente, bisogna brindare. Il momento più principale, quindi devo andare assolutamente. Di solito, vabbè, si beve un po' e poi. E poi cosa è successo? Poi... Che hai combinato? Pensavo che Giovanni, guarda, che era diciamo vestito che... di rosa all'Oktoberfest. Ecco, ricordiamo a tutti quelli che sono stati all'Oktoberfest che Giovanni era vestito di rosa spontaneamente. Non era un booster che cambiava. Cosa tipica di Giovanni. Cos'è successo? Che avevo questo appuntamento con una ragazza per la sera del giorno in cui era l'Oktoberfest. Però mi sono recato all'Oktoberfest, diciamo, verso le 3. E Del pomeriggio. Ok. Arrivare al tempo di sera... Non ho più avuto modo di... Non sapevi più dove di ricordarmi che c'era questo appuntamento. Cioè, ti sei dimenticato di vedere una gnocca, ragazzi, qua è... ed era anche molto gnocca. C'è andato Giovanni, tra l'altro, mi sa... Per le foto mi basta, di dove era? Serbia. Serbia. Serbia o Serbia. Greco serba. Ma lì è un po' difficile, i confini sono un po', cioè nel senso cambiano. Territorio un po', sì, un po' martoriato. Sconfiniamo, fa niente. Comunque Serbia, Bosnia. Comunque non ti sei presentato all'appello. Esatto. Va bene. Incredibile. Vabbè. Questo è un vostro amico? No, ma in realtà non sappiamo chi sia, però. Fantastico. Però vabbè, è già fans. Quindi ragazzi, la storia dei vostri accoppiamenti sono bellissime. Io passerei ore e ore e ore a parlare con voi, però dovevamo parlare 5 minuti, sono già 10 minuti che stiamo parlando. Non so se vi siete accorti. Il tempo vola. Il tempo vola, è bello. Comunque, niente, vi aspetto nuovamente qua al convento di Lonato. Se potete portare altre nazioni qua. Volentieri. No, e la prossima volta Giovanni vestito di rosa, mi raccomando. Non promettiamo niente, però ovviamente. Esatto, Giovanni vestito di rosa, Luca con le lucine di Natale. Esatto. E te da mappamondo vestito. cosa ti devo dire? Ma hai richieste particolari di nazionalità? O... Ma procuri anche la nazione, sì, su richiesta? Noi proviamo. Guarda, io sono per l'energia, quindi non so, farei una Sud America, Brasile, Sud America. Qualcosa, ecco. Io conosco due domenicane. Due domenicane, ecco, vieni qua domenica. Non fregarcelo, non vogliamo sapere. No, ecco, non approfondiamo. Approfondirà lui, mi sa. Ok, va bene. Non so se in Bielorussia ascoltano. È vero, no, ma le conosce a livello amichevole. Lui è innamoratissimo della Bielorussia. Ok, come si chiama la Bielorussa? Victoria, Elissa, Carlotta. Un saluto da Lorenzo, Luca, Giovanni e da Sandrino. Ciao.